Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Nella corsia dell'ospedale da campo mi dissero che nel pomeriggio avrei avuto una visita. Era una giornata calda e c'erano molte mosche nella stanza. L'attendente aveva tagliato della carta in strisce e aveva legato le strisce a un bastoncino per farne uno scacciamosche. Le guardavo fermarsi sul soffitto. Quando smise di sventolare si addormentò, scesero tutte e io soffiai per staccarle e alla fine mi coprii la faccia con le mani e mi addormentai anch'io. Faceva molto caldo e quando mi svegliai le gambe mi prudevano. Svegliai l'attendente e mi feci versare dell'acqua minerale sulle fasciature. Il letto divenne umido e fresco. Quelli di noi che erano svegli parlavano attraverso la corsia. Il pomeriggio era un momento tranquillo. La mattina venivano a ogni letto 3 infermieri e un medico a turno e ci toglievano dal letto e portavano nella sala di medicazione per poter rifare i letti mentre ci medicavano le ferite. Non era un viaggio piacevole quello alla sala di medicazione e non seppi fino a più tardi che i letti si potevano rifare coi malati dentro. L'attendente aveva finito di versare l'acqua e il letto era fresco e piacevole e stavo dicendo in quale punto delle piante dei piedi doveva grattarmi per togliermi il prurito quando il medico mi accompagnò Rinaldi. Venne molto in fretta e si curvò sul letto e mi baciò. Vidi che aveva i guanti. «Come va, pupo? Come ti senti? Ti ho portato questa?» Era una bottiglia di cognac. Il piantone portò una seggiola e Rinaldi sedette. «E buone notizie. Sarei decorato. Vogliono darti la medaglia d'argento, ma forse ti daranno solo quella di bronzo.» «Perché?» «Perché sei ferito gravemente. Dicono che se puoi provare che hai compiuto un atto eroico, puoi prendere quella d'argento, altrimenti sarà di bronzo. Dimmi esattamente che cosa è successo. Hai compiuto qualche atto eroico?» «No», dissi. «Sono saltato in aria mentre stavamo mangiando il formaggio.» «No, scherzare. Devi aver fatto qualche cosa di eroico o prima o dopo. Cerca di ricordare.» «Non ho fatto niente.» «Non hai portato qualcuno sulla schiena?» «Gordini dice che hai portato parecchia gente sulla schiena, ma il maggiore medico del primo posto di raccolta dichiara che è impossibile. Deve firmare la proposta per la motivazione.» «Non ho portato nessuno, non potevo muovermi.» «Questo non importa», disse Rinaldi. Si tolse i guanti. «Credo che possiamo darti quella d'argento. Non hai rifiutato di farti medicare prima degli altri?» Senza molta insistenza. «Questo non importa. Guarda come sei ferito. Guarda la tua condotta valorosa nel chiedere di andare sempre in prima linea. Poi l'operazione è riuscita.» «Sono riusciti ad attraversare il fiume?» «In modo straordinario. Hanno fatto quasi 1000 prigionieri. C'è nel bollettino, non l'hai visto?» «No.» «E te lo porterò. È stato un bel colpo di mano.» «Come vanno le cose?» «Magnificamente, stiamo tutti magnificamente, sono tutti orgogliosi di te. Dimmi esattamente com'è andata, sono certo che ti daranno quella d'argento. Su, raccontami tutto.» Si interruppe sopra pensiero. «Forse avrai anche una medaglia inglese. C'era un inglese lì presente, andrò a trovarlo per vedere se può raccomandarti. Dovrebbe essere in grado di fare qualcosa. Soffri molto? Bevi qualcosa. Attendente, va a cercare un cavatappi. Oh, dovresti vedere quello che ho fatto nell'asportazione di 3 metri di intestino tenue. Andrebbe bene per The Lancet. Fammi la traduzione, la manderò all'Lancet. Ogni giorno lavoro meglio, povero caro pupo. Ma come stai, eh? Dov'è quel maledetto cavatappi? Sei così coraggioso e tranquillo che dimentico che soffri.» Battei i guanti sull'orlo del letto. «Ecco il cavatappi, signor tenente», disse il piantone. «Apri la bottiglia, prendi un bicchiere. Bevi questo, pupo. Come va la tua povera testa? Ho guardato la tua cartella clinica, non c'è frattura. Quel maggiore al primo posto di raccolta era un macellaio. Se ti curassi io non ti farei male, non faccio mai male a nessuno. So come fare. Ogni giorno imparo a fare le cose meglio con più leggerezza. Devi scusarmi se parlo tanto, pupo. Sono molto commosso nel vederti ferito grave qua. Bevi questo. È buono. Costa 15 lire, dovrebbe essere buono. 5 stelle. Quando vado via di qui vado a cercare quell'inglese e ti farà dare una medaglia inglese.» «Non le danno mica così.» «Ma sei modesto. Manderò l'ufficiale di collegamento, lui sa come si manovra con gli inglesi.» «Hai visto Miss Barclay? Te la porterò qui.» «Vado a prendertela subito.» «No, no, no, non andartene», dissi. «Dimmi piuttosto di Gorizia, come vanno le ragazze?» Non ci sono ragazze. Da 2 settimane non le cambiano, non ci vado più. È un disastro. Quelli non sono più ragazze. Sono vecchi commilitoni. Non ci vai per niente? Vado solo a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Mi fermo fuori. Chiedono tutte di te. È un disastro che rimangano tanto da diventare amiche. Forse le ragazze non hanno più voglia di venire al fronte. Certo che ne hanno voglia. C'è un mucchio di ragazze, solo cattiva amministrazione. Le tengono nelle retrovie per gli imboscati. Povero Rinaldi, dissi. Tutto solo alla guerra, senza ragazze nuove. Era il crepuscolo quando venne il cappellano. Avevano portato la minestra e poi erano venuti a prendere le scodelle e io ero disteso a guardare le file dei letti e fuori dalla finestra la cima dell'albero che si muoveva lieve nell'aria serale. Quell'aria entrava dalla finestra e con la sera diventava più fresca. Ora le mosche erano sul soffitto e sulle lampade elettriche che pendevano dai fili. Le luci venivano accese soltanto quando qualcuno veniva la sera o quando si faceva qualcosa. Mi faceva sentire molto giovane vedere giungere il buio dopo il crepuscolo senza più andarsene. Era come venir messi a letto subito dopo cena. L'attendente venne tra i letti e si fermò. Con lui c'era qualcuno. Era il cappellano. Rimase in piedi, piccolo, abbronzato e imbarazzato. «Come va?» chiese. Posò qualche pacco accanto al letto per terra. «Bene, padre». Sedette sulla seggiola che era stata portata per Rinaldi e guardò fuori dalla finestra imbarazzato. Notai che il suo viso era molto stanco. «Non posso fermarmi che un minuto», disse. «È tardi». «Non è tardi. Come va alla mensa?» Sorrise. «Sono ancora un grande argomento». Anche la sua voce era stanca. «Grazie a Dio, stanno tutti bene. Sono così lieto che lei stia bene», disse. «Spero che non soffra». Pareva molto stanco e non ero abituato a vederlo stanco. «Non più. Sento la sua mancanza a mensa. Vorrei esserci, mi è sempre piaciuto chiacchierare con lei. Le ho portato qualche cosetta», disse. Prese i pacchetti. «Questa è una zanzariera. Questa è una bottiglia di vermouth. Le piace il vermouth? Questi sono giornali inglesi. Per favore, li apra». Gli fece piacere e li aprì. Presi la zanzariera in mano. Il vermouth lo alzò per farmelo vedere e poi lo rimise per terra, accanto al letto. Presi dal fascio un giornale inglese. Riuscii a leggere le intestazioni, girando in modo che la mezza luce della finestra vi cadesse sopra. Era il The News of the World. «Gli altri sono illustrati», disse. «Sarò molto lieto di leggerli. Dove li ha presi?» «Ho mandato a cercarli a Mestre, ne avrò degli altri». «È stato molto gentile a venire, padre. Vuole un bicchiere di vermouth?» «Grazie, lo tenga per sé». «E per lei?» «No, ne prendo un bicchiere». «Bene, gliene porterò dell'altro, allora». L'attendente portò i bicchieri, aprì la bottiglia, ruppe il turacciolo e dovette spingerne un pezzo nella bottiglia. Vidi che il cappellano era seccato, ma disse: «Va bene, non importa». «Alla salute, padre. Alla sua guarigione». Poi tenne il bicchiere in mano e ci guardammo. A volte chiacchieravamo ed eravamo buoni amici, ma stasera era difficile. «Che cosa c'è, padre?» «Sembra molto stanco». «Sono stanco. Ma non ho ragione di esserlo. È il caldo». «No, è soltanto primavera. Mi sento molto giù». «Hai il disgusto della guerra?» «No, ma odio la guerra». «Neanche a me piace», dissi. Scosse il capo e guardò fuori dalla finestra. «Lei non ci pensa, lei non lo vede, deve perdonarmi. So che è ferito. È stato un caso, eppure per quanto ferito non lo vede, glielo dico io. Non lo vedo io stesso, però lo sento un po'. Stavamo parlando di questo quando fui ferito. Parlava Passini». Il cappellano posò il bicchiere e pensava a qualcos'altro. «Li conosco perché io sono come loro», disse. «Lei però è diverso». ma in fondo sono come loro. Gli ufficiali non vedono niente. Qualcuno, sì, qualcuno è molto sensibile e sta peggio di loro. Sono quasi tutti diversi. No, non si tratta di educazione o di denaro. Si tratta di qualcos'altro. Anche se avessero educazione o denaro, uomini come Passini non vorrebbero essere ufficiali. Io non vorrei essere ufficiale. Il suo grado è di ufficiale. Anche io sono ufficiale. In realtà non lo sono. Lei non è neanche italiano. È uno straniero, ma è più vicino agli ufficiali che agli uomini. Che differenza c'è? È difficile a dirsi. È gente a cui piace fare la guerra. In questo paese ce n'è tanti così. C'è altra gente a cui non piace, ma i primi gliela fanno fare. Sì, e io li aiuto. Lei è straniero, lei è un patriota. E quelli che non vogliono fare la guerra riescono a fermarla? No, non lo so. Tornò a guardare fuori dalla finestra. Gli osservai il viso. Sono mai riusciti a fermarla. Non sono organizzati per fermarla, e quando si organizzano i loro capi li vendono. Allora non c'è speranza. C'è sempre speranza. Ma a volte non riesco a sperare. Cerco sempre di sperare, ma a volte non ci riesco. Forse la guerra finirà. Lo spero. E allora che cosa farà? Se è possibile, ritornerò negli Abruzzi. Il viso bruno gli si rischiarò d'improvviso. Bene agli Abruzzi. Sì, molto. Allora dovrebbe andarci. Sarei troppo felice se potessi vivere là e amare Dio e servirlo. Ed essere rispettato, dissi. Sì, ed essere rispettato. Perché no? Non c'è ragione perché non lo sia. Dovrebbe essere rispettato. Non importa. Ma là nel mio paese si può capire che un uomo ami Dio. Non è sudicio scherzo. Capisco. Mi guardò, mi sorrise. Lei capisce, ma non ama Dio. No. Proprio per niente, chiese. A volte la notte ho paura di lui. Dovrebbe amarlo. Non sono molto capace di amare. Sì, disse. È capace. Quello che mi racconta delle sue notti. Quello non è amore, quello è soltanto passione, lussuria. Quando si ama si desidera fare qualcosa, si desidera sacrificarsi, si desidera servire. Io non sono capace di amare. Imparerà. So che imparerà. Allora sarà felice. Sono felice. Sono sempre stato felice. È un'altra cosa. Non si può sapere finché non si è provato. Bene, dissi. Se mai mi capiterà, glielo dirò. Mi fermo troppo e parlo troppo. Temeva di averlo fatto davvero. No, non se ne vada. È l'amore per le donne. Se amassi davvero una donna, sarebbe così. Non lo so. Non ho mai amato una donna. E sua madre? Sì. Lei sì. Ha sempre amato Dio. Da quando ero ragazzo. Bene, dissi. Non sapevo che cosa dire. Ma è un ragazzo simpatico, dissi. Sono un ragazzo, disse, ma mi chiama padre. E per educazione, sorrise. Devo proprio andare, disse. Posso esserle utile in qualcosa? Chiese pieno di speranza. No, solo per chiacchierare. Porterò i suoi saluti alla mensa. Grazie per tutti questi bei regali. Niente, ritorni a trovarmi. Sì, arrivederci. Mi batté sulla mano. Ciao, disse in dialetto. Ciao, ripeté. Era buio nella stanza e l'attendente che era rimasto seduto ai piedi del letto si alzò e uscì con lui. Gli volevo molto bene e speravo che una volta o l'altra potesse ritornare negli Abruzzi. Faceva una porcheria di vita alla mensa e la sopportava bene, ma pensavo a come sarebbe stato il suo paese. A Capracotta, mi aveva detto, c'erano le trote nel torrente sotto la città. Era proibito suonare il flauto la notte. Quando i giovanotti facevano le serenate, soltanto il flauto era proibito. Perché? Avevo chiesto. Perché alle ragazze non faceva bene udire il flauto di notte. I contadini chiamano tutti don e quando incontrano qualcuno si tolgono il cappello. Suo padre andava a caccia ogni giorno e si fermava a mangiare nelle case dei contadini. Per loro era sempre un onore. Uno straniero, per poter cacciare, deve presentare un certificato che non è mai stato arrestato. C'erano gli orsi sul Gran Sasso d'Italia, ma era lontano. Aquila era una bella città. D'estate la notte faceva fresco e la primavera degli Abruzzi era la più bella d'Italia. Ma quel che era bello era l'autunno per andare a caccia nei boschi di castagni. Gli uccelli erano tutti buoni perché si nutrivano d'uva e non c'era mai bisogno di preparare una colazione, perché i contadini erano sempre onorati e si mangiava in casa loro. Dopo un po' mi addormentai. La stanza era lunga, con le finestre sul lato destro e una porta in fondo che dava nella sala di medicazione. La fila di letti dove c'era il mio era di fronte alle finestre e un'altra fila sotto le finestre stava di fronte alla parete. Se ci si sdraiava sul fianco sinistro si vedeva la porta della sala di medicazione. Dall'altra parte c'era un'altra porta da cui a volte entrava la gente. Se qualcuno stava per morire mettevano un paravento intorno al letto perché non lo si vedesse morire. E soltanto apparivano in fondo al paravento le scarpe e le calze dei dottori e degli infermieri, e a volte alla fine si sentiva bisbigliare. Poi il cappellano usciva da dietro il paravento e poco dopo gli infermieri ritornavano dietro il paravento per uscirne di nuovo portando sotto una coperta lungo il corridoio tra i letti quello che era morto, e qualcuno piegava il paravento e lo portava via. Quella mattina il maggiore responsabile della corsia mi chiese se mi sentivo di viaggiare il giorno dopo. Dissi di sì. Disse che allora mi avrebbero portato via all'alba. Disse che era meglio fare il viaggio adesso, prima che facesse troppo caldo. Quando ci alzavano dal letto per portarci nella sala di medicazione, si poteva guardare fuori dalla finestra e vedere le nuove tombe in giardino. Un soldato era seduto fuori dalla porta che dava sul giardino e faceva croci e vi dipingeva sopra i nomi, il grado e il reggimento degli uomini che erano sepolti in giardino. Faceva anche le commissioni per la corsia e nel tempo libero mi faceva un accendisigaro con un bossolo di fucile austriaco. I medici erano molto simpatici e parevano molto bravi. Erano ansiosi di mandarmi a Milano, dove c'erano maggiori facilitazioni per i raggi X. Anch'io volevo andare a Milano. Volevano mandarci tutti via e più indietro possibile, perché c'era bisogno di tutti i letti per l'offensiva quando ricominciasse. La sera prima che lasciassi l'ospedaletto da campo, Rinaldi venne a trovarmi col maggiore della mensa. Dissero che sarei andato a Milano in un ospedale americano che era stato impiantato da poco. Qualche reparto di sanità americano stava per arrivare e questo ospedale era fatto per loro e per tutti gli americani in servizio in Italia. Ce n'erano molti nella Croce Rossa. Gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania, ma non all'Austria. Gli italiani erano certi che l'America avrebbe dichiarato guerra anche all'Austria ed erano molto eccitati a qualsiasi arrivo americano, sia pure della Croce Rossa. Mi chiesero se credevo che il presidente Wilson avrebbe dichiarato guerra all'Austria e dissi che era solo questione di giorni. Non sapevo che cosa avessimo noi contro l'Austria, ma pareva logico che dovessero dichiararle la guerra come l'avevano dichiarata alla Germania. Mi chiesero se avremmo dichiarato guerra alla Turchia. Dissi che non credevo. Il tacchino, dissi, era il nostro uccello nazionale, ma lo scherzo era così difficile da tradurre e loro erano così perplessi e sospettosi che dissi di sì, era probabile che dichiarassimo guerra alla Turchia e alla Bulgaria. Avevamo bevuto parecchi bicchieri di cognac e dissi sì, per Dio, anche alla Bulgaria e al Giappone. Ma dissero, il Giappone è alleato con l'Inghilterra. Non c'è da fidarsi di quei maledetti inglesi. I giapponesi vogliono le Hawaii, dissi. Dove sono le Hawaii? Sono nell'Oceano Pacifico, perché i giapponesi le vogliono. Non è che proprio le vogliono. Sono tutte chiacchiere. I giapponesi sono un piccolo popolo straordinario che ama la danza e i vini leggeri. Come i francesi, disse un medico. Prenderemo Nizza e Savoia alla Francia. Prenderemo la Corsica e tutta la costa adriatica, disse Rinaldi. L'Italia ritornerà agli splendori di Roma, disse il maggiore. Non mi piace Roma, dissi. Fa caldo e c'è pieno di mosche. Non le piace Roma? Sì, io amo Roma. Roma è la madre delle nazioni. Non dimenticherò mai il Romolo che succhia il Tevere. Cosa? No, niente, niente. Andiamo tutti a Roma. Andiamo a Roma stasera e non torniamo più. Roma è una bella città, disse il maggiore. La madre è il padre delle nazioni, dissi. Roma è femminile, disse Rinaldi. No, non può essere padre. E chi è il padre allora? Lo Spirito Santo? Non essere blasfemo. Non stavo bestemmiando, stavo chiedendo un'informazione. Se è ubriaco, pupo. Chi mi ha ubriacato? Io vi ho ubriacato, disse il maggiore. Vi ho ubriacato perché vi voglio bene, perché l'America è in guerra. Ah, proprio così, dissi. Parti domattina, pupo, disse Rinaldi. Per Roma, dissi. No, per Milano. Per Milano, disse il maggiore. Il Palazzo di Cristallo, il Cova, il Campari, il Biffi, la Galleria. Fortunato, il Gran Italia, dissi. A farmi prestare soldi da Giorgio. La Scala, disse Rinaldi. Andrai alla Scala tutte le sere, dissi. Non potrà permetterselo tutte le sere, disse il maggiore. I biglietti costano troppo e metterò una tratta a vista su mio nonno, dissi. Una che cosa? Una tratta a vista. O lui paga o io vado in prigione. Lo fa il signor Cullingham in banca. Io vivo di tratte a vista. Come può un nonno mandare in prigione un nipote patriota che muore perché l'Italia possa vivere? Viva il Garibaldi americano, disse Rinaldi. Viva le tratte a vista, dissi. Bisogna che stiamo zitti, disse il maggiore. Ci hanno chiesto già un mucchio di volte di stare zitti. Te ne vai proprio domani, Federico? Va nell'ospedale americano, disse Rinaldi, dalle belle infermiere. Non le infermiere con la barba dell'ospedaletto da campo. Sì, sì, disse il maggiore, so che va all'ospedale americano. Non mi importa la barba, dissi. Se uno vuole farsi crescere la barba, faccia pure. Perché non si fa crescere la barba, signor maggiore? Non starebbe dentro la maschera antigas? Sì, che ci starebbe. Qualunque cosa può stare in una maschera antigas. Io ho vomitato in una maschera antigas. Non parlare così forte, pupo, disse Rinaldi. Sappiamo tutti che sei stato al fronte. Oh, pupo bello, che cosa farò quando te ne sarei andato? Dobbiamo andare, disse il maggiore. Sta diventando sentimentale. Senti, ho una sorpresa per te. La tua inglese, sai? L'inglese che andai a trovare la sera all'ospedale. Va anche lei a Milano? Va con un'altra all'ospedale americano. Non sono ancora arrivate le infermiere dall'America. Ho parlato oggi con il loro caporeparto. Ci sono troppe donne qui al fronte e ne mandano qualcuno indietro. Cosa ne dici, pupo? Bene, sì? Te ne vai a stare in una grande città con la tua inglese a coccolarti. Perché non hanno ferito me. Forse toccherà anche a te, dissi. Dobbiamo andare, disse il maggiore. Beviamo e facciamo rumore, disturbiamo Federico. No, no, no, non ve ne andate. Sì, dobbiamo andare. Arrivederci, in bocca al lupo. Tante cose, ciao, ciao, ciao. Torna indietro presto, pupo. Rinaldi mi baciò. Puzzi di lisoformio. Addio, pupo, addio, tante cose. Il maggiore mi batté la mano sulla spalla. Uscirono in punta di piedi. Mi accorsi che ero completamente ubriaco e mi addormentai. L'indomani mattina partimmo per Milano e arrivammo 48 ore dopo. Fu un brutto viaggio. Restammo un pezzo su un binario morto prima di Mestre e i bambini venivano a curiosare. Mandai un ragazzino a cercare una bottiglia di cognac, ma ritornò a dirmi che c'era soltanto grappa. Gli dissi di prenderle. Quando arrivò gli regalai gli spiccioli. Il mio vicino e io ci ubriacammo e dormimmo fin dopo Vicenza, dove mi svegliai e vomitai a lungo per terra. Non importava, perché il mio vicino aveva già vomitato parecchie volte per terra. Poi pensai che non potevo sopportare la sete e allo scalo fuori di Verona chiamai un soldato che camminava su e giù lungo il treno e mi diede un sorso d'acqua. Disse di versargliela sulla spalla e si riaddormentò. Il soldato non volle prendere la mancia che gli offrivo e mi portò un'arancia piena di sugo. La succhiai e sputai fuori la polpa e guardai il soldato passare su e giù lungo un treno merci, e dopo un po' il treno diede uno scrollone e partì. Lassù, lassù, lieta per te, drem, drem, la stella del nostro amor. Lassù, lassù, fra l'anime beate in dittico, verrem, verrem, oblio.